La formazione nella dottrina cattolica. 23. Chi ama sinceramente Dio si sente spinto a conoscerlo sempre più e meglio. Non si accontenta di una relazione superficiale e cerca di comprendere tutto ciò che a lui si riferisce nel modo più profondo possibile. Il desiderio di acquistare la scienza teologica, la buona e sicura dottrina cristiana, è mosso in primo luogo dal bisogno di conoscere e amare Dio. Nello stesso tempo è anche conseguenza della preoccupazione di un'anima fedele di scoprire il significato profondo di questo mondo, opera del Creatore. Per questo la formazione che l'Opus Dei offre ai propri fedeli, considerata dalla prospettiva dottrinale e religiosa, si propone di fare in modo che acquistiamo la dottrina della Chiesa e ne approfondiamo la conoscenza. Con il medesimo obiettivo, mirando a Dio e al mondo, il Beato Giovanni Paolo II ha indicato l'attuale necessità della formazione nella dottrina cattolica. Sempre più urgente si rivela oggi la formazione dottrinale dei fedeli laici, non solo per il naturale dinamismo di approfondimento della loro fede, ma anche per l'esigenza di rendere ragione della speranza che è in loro di fronte al mondo e ai suoi gravi e complessi problemi. Si rendono così assolutamente necessarie una sistematica azione di catechesi da graduarsi in rapporto all'età e alle diverse situazioni di vita e una più decisa promozione cristiana della cultura come risposta agli eterni interrogativi che agitano l'uomo e la società di oggi. Fin dagli inizi dell'Opus Dei e ancor prima, San José María dimostrò un particolare interesse che le persone che egli assisteva spiritualmente approfondissero la loro formazione dottrinale e religiosa, perché ognuno deve impegnarsi nella misura delle sue possibilità, nello studio serio e scientifico della fede. 24. Scriveva San Gregorio Magno: «Quanto mai inutile è la pietà se manca la discrezione della scienza». E vana è la scienza se non è utile alla pietà. Il nostro fondatore insistette perché lo studio della dottrina fosse accompagnato da una sincera vita spirituale, attraverso l'intima relazione con Cristo nell'orazione e nei sacramenti, attraverso una devozione filiale per la Santissima Vergine. Insegnava che la verità è sempre, in un certo senso, cosa sacra, dono di Dio, luce divina che ci indirizza verso colui che è la luce per essenza. E questo succede soprattutto quando si considera la verità nell'ordine soprannaturale. Bisogna dunque trattarla con rispetto, con amore. E ancora, siamo persuasi che la verità divina che portiamo ci trascende, che le nostre parole sono insufficienti a esprimerne tutta la ricchezza ed è anche possibile che non la comprendiamo pienamente e che svolgiamo il ruolo di chi trasmette un messaggio che egli personalmente non comprende del tutto. È molto importante l'impegno della prelatura per assicurare a tutti i suoi fedeli e a molte altre persone una seria preparazione dottrinale, ancor più in momenti come quelli attuali, nei quali tale necessità si nota in modo più perentorio. Appare una gioiosa realtà l'affermazione di molti anni fa del nostro fondatore: l'opera intera è simile a una grande catechesi, fatta in modo vivo, semplice e diretto all'interno della società civile. La fedeltà al Magistero e la libertà in ciò che è opinabile. 25. La formazione dottrinale abbraccia tutti i campi, dalla filosofia alla teologia e al diritto canonico, eccetera. Mediante questa preparazione, che nel caso dei numerari e delle numerarie e di molti aggregati e aggregate è equivalente ai programmi che si studiano nelle università pontificie, si ottiene che in tutti gli strati della società vi siano persone decise a dare una testimonianza viva del Vangelo con la parola e con le opere, pronti sempre, come scrive San Pietro, a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. In accordo con le ripetute direttive del Magistero, nella spiegazione delle varie materie filosofiche e teologiche, ha una speciale importanza la dottrina del Dottore Comune della Chiesa. Si adempie così la raccomandazione del Concilio Vaticano II e di tanti romani pontefici, approfondire i misteri della salvezza e vederne il nesso, avendo San Tommaso per maestro. San Cosimaria si attenne a questa linea, che ricordò sempre ai professori e alle professoresse degli studi generali della prelatura. Nello stesso tempo, con una mentalità aperta al progresso della scienza teologica, spiegava che, in base a tale raccomandazione, non si può concludere che dobbiamo limitarci ad assimilare e ripetere tutti e soltanto gli insegnamenti di San Tommaso. È cosa ben diversa. Dobbiamo certamente coltivare la dottrina del dottore angelico, ma nello stesso modo in cui egli la coltiverebbe se fosse ancora vivo. Per questo alcune volte si dovrà portare a termine ciò che egli stesso poté soltanto cominciare. E proprio per questo facciamo nostre tutte le scoperte che rispondano a verità di alti autori. Vi ricordo ancora una volta, con parole di nostro padre, una caratteristica essenziale dello spirito dell'Opus Dei. Corporativamente non abbiamo altra dottrina che quella che insegna il Magistero della Santa Sede. Accettiamo tutto ciò che questo Magistero accetta e respingiamo tutto ciò che respinge. Crediamo fermamente tutto quanto propone come verità di fede e facciamo anche nostro tutto ciò che è di dottrina cattolica. E all'interno di questa vasta dottrina ognuno di noi forma il proprio criterio personale. Gli statuti della prelatura stabiliscono la proibizione che l'Opus Dei, lo disse il nostro fondatore, crei o adotti una particolare scuola filosofica o teologica. Oltre che amore per la libertà, ciò è l'espressione di un fatto ecclesiologico fondamentale, che i membri della prelatura sono comuni fedeli cristiani, oppure, nel loro caso, comuni sacerdoti secolari, con identici ambiti di libertà di opinione degli altri cattolici. La formazione all'apostolato. 26. La profonda conoscenza delle verità religiose fondamentali, oltre che degli aspetti etici e morali legati più da vicino all'esercizio del proprio lavoro, è importante anche per svolgere un'ampia attività apostolica nell'ambiente professionale in cui ognuno opera. La luce di coloro che seguono Gesù Cristo non deve essere collocata nel fondo della valle, ma in vetta alla montagna, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sicuramente abbondano le persone di gran cuore, capace di innamorarsi di Dio, alle quali manca la luce della dottrina che orienti e dia un senso alla loro vita. Ai cristiani spetta il dovere e il piacere di dargliela. Un passo del Nuovo Testamento lo spiega con chiarezza. Adempiendo a un comando dello Spirito Santo, il diacono Filippo si diresse sulla strada che conduceva a Gaza. Da lì passava una carrozza sulla quale un alto funzionario ministro della regina d'Etiopia ritornava al suo paese dopo aver adorato Dio a Gerusalemme. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Quegli rispose: «E come lo potrei se nessuno mi istruisce?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. È compito dei cattolici, con pace e perseveranza, annunciare la buona novella di Gesù, rimediare all'ignoranza religiosa mediante la diffusione della dottrina rivelata. L'apostolato cristiano, mi riferisco in concreto a quello di un comune cristiano, di un uomo o di una donna che vivono come uno dei tanti tra i loro simili, è una grande catechesi in cui, mediante il rapporto personale, l'amicizia leale e autentica, si risveglia negli altri la sete di Dio e li aiuta a scoprire orizzonti nuovi. Con naturalezza, con semplicità, vi dicevo, con l'esempio di una fede ben vissuta, con la parola amabile, ma piena della forza della verità divina. Dobbiamo propagare con ardore la verità di Cristo, far sì che altri partecipino del tesoro che abbiamo ricevuto, in modo che si rendano conto che non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l'amicizia con Lui. 27. Nel decreto sull'apostolato dei laici, il Concilio Vaticano II insegna che l'apostolato può raggiungere piena efficacia soltanto mediante una multiforme e integrale formazione. la quale è richiesta non soltanto dal continuo progresso spirituale e dottrinale del laico, ma anche dalle varie circostanze di cose, di persone, di compiti a cui la sua attività deve adattarsi. Oltre la formazione comune a tutti i cristiani, a causa della varietà delle persone e delle circostanze, non poche forme di apostolato esigono una formazione specifica e particolare. Negli ultimi anni questo anelito di anime ha richiesto maggior vigore per contrastare il secolarismo che è avanzato a grandi passi, fino ad acquisire cittadinanza in paesi tradizionalmente cristiani. Impregnare nuovamente con lo spirito di Cristo le radici di queste nazioni è proprio l'obiettivo della nuova evangelizzazione. Nella prelatura questo lavoro si riassume nell'orientare e stimolare ogni persona affinché compia la missione evangelizzatrice ricevuta nel battesimo, con lo spirito e i mezzi specifici dell'Opus Dei, attraverso l'apostolato di amicizia e di confidenza. Giovanni Paolo II insisteva sul fatto che il mondo reclama evangelizzatori credibili nella cui vita, in comunione con la croce e la resurrezione di Cristo, risplenda la bellezza del Vangelo. Ogni battezzato, in quanto testimone di Cristo, deve acquisire la formazione adeguata alla sua condizione, non solo per evitare che la fede si inaridisca per mancanza di cura in un ambiente ostile come quello mondano, ma anche per dare sostegno e impulso alla testimonianza evangelizzatrice. L'apostolato personale di amicizia e di confidenza. 28. Nostro Signore è venuto su questa terra affinché tutte le anime raggiungano la vita eterna e vuole contare anche sui Suoi discepoli. Ut eatis, perché andiate, ripete a noi cristiani come agli apostoli, e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Pertanto, figlie e figli miei, dobbiamo portare la sua dottrina nei più diversi ambienti, perché a noi interessano tutte le anime per il Signore. Però appare logico cominciare da coloro che Dio ci ha posto accanto. Nella prelatura dell'Opus Dei, come vi dicevo, diamo la priorità a ciò che San José María chiamava apostolato di amicizia e di confidenza, un rapporto personale nel quale un cuore versa in un altro cuore la propria conoscenza e il proprio amore di Cristo, facendo in modo che costui si apra più facilmente ai delicati impulsi della grazia. L'amicizia richiede e nello stesso tempo crea comunione di sentimenti e di aneliti. Ma dove avviene soprattutto questa comunicazione è nella convivenza, ed ecco perché il convivere è la caratteristica dell'amicizia. Con questo rapporto inizia il primo passo del cammino di amicizia. Ci procura gioia quindi approfittare delle occasioni che il lavoro professionale e sociale ci offre per conoscere nuovi amici con il desiderio di aiutarli e anche di imparare da loro. L'amicizia è essenzialmente reciproca. Nostro Padre ci incoraggiava a comportarci come Cristo che passa accanto alle persone lungo il sentiero della vita quotidiana. Il Signore vuole servirsi di noi, del nostro rapporto con gli uomini, della nostra capacità che ci ha dato Lui di amare e di farci amare, per continuare a farsi amici sulla terra. Tra le caratteristiche di questo modo di servire si mette in evidenza la necessità di sapersi adattare alla capacità e alla mentalità di ciascuno, perché capiscano quello che ascoltano. San José María chiamava dono delle lingue questo sforzo di farsi capire che appare come frutto della grazia, della preghiera e della preparazione personale, affinché la dottrina della Chiesa risuoni con tonalità nuove negli orecchi delle persone. Occorre ripetere le stesse cose, ma in modi diversi. È la forma che deve essere sempre nuova, diversa, non la dottrina. Si tratta di imitare Gesù, che esponeva gli insegnamenti più elevati per mezzo di parabole e di paragoni, che tutti, ognuno al proprio livello, erano in condizione di comprendere. Stimoliamo il desiderio di esporre le verità cristiane in modo attraente. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno. Non si tratta di una formalità o di mostrarci eruditi, ma di parlare con contenuti, cercando la gloria di Dio e il bene delle anime. 29. In tale contesto, la profonda conoscenza della Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento, frutto di una lettura assidua e di una meditazione attenta, acquista un'importanza fondamentale. Lo ha ricordato recentemente Papa Benedetto XVI nell'esortazione apostolica Verbum Domini sulla parola di Dio nella missione della Chiesa. Lì, fra altri grandi santi ai quali il Signore ha concesso luci speciali per approfondire il significato spirituale della Bibbia, il Papa afferma che uno di questi raggi di luce si manifesta in San José María Escrivá nella sua predicazione sulla chiamata universale alla santità. Il Romano Pontefice scrive che un momento importante dell'animazione pastorale della Chiesa in cui poter sapientemente riscoprire la centralità della parola di Dio è la catechesi, che nelle sue diverse forme e fasi deve sempre accompagnare il popolo di Dio. E fa vedere come l'incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù, descritto dall'Evangelista Luca, rappresenta in un certo senso il modello di una catechesi al cui centro sta la spiegazione delle scritture, che solo Cristo è in grado di dare, mostrando in se stesso il loro compimento. In tal modo rinasce la speranza più forte di ogni sconfitta, che fa di quei discepoli testimoni convinti e credibili del risorto. Queste parole non vi fanno venire in mente l'affermazione gioiosa di nostro padre quando predicava che ora Emmaus è il mondo intero perché il Signore ha aperto i cammini divini della terra? Ricordate come ci ha trasmesso gli insegnamenti di questo passo di San Luca. Diceva che tutta la vita di Cristo è un modello divino che dobbiamo imitare, ma quello che ci racconta l'Evangelista della scena di Emmaus ci appartiene in modo molto particolare. Di questa scena evangelica si servì anche per parlarci dell'apostolato personale di amicizia e di confidenza. Metteva l'accento su una caratteristica importante. È necessario prendere l'iniziativa, andare incontro alle persone per offrire loro la nostra amicizia e aiutarli nella ricerca di Dio, rispettando e difendendo l'intimità e la libertà di tutti. Sulla via di Emmaus, il risorto va in cerca di due discepoli che ritornavano alle loro case, scoraggiati dalle vicende dolorose alle quali avevano assistito, la passione e la morte del loro Signore. Questo gesto di Gesù ci insegna che l'amicizia induce a partecipare alle gioie e alle pene dei nostri amici, con i quali siamo solidali e ai quali dedichiamo tempo. Gesù cammina insieme ai due uomini che hanno perso quasi ogni speranza, tanto che la vita comincia a sembrar loro priva di significato. Ne comprende il dolore, entra nel loro cuore, comunica loro qualcosa della vita che palpita in lui. Nello stesso modo, noi dobbiamo condividere le preoccupazioni, gli entusiasmi, le difficoltà di coloro che frequentiamo, colleghi di ufficio o di professione, senza che da loro ci separi nessuna barriera. Una splendida caratteristica dello spirito dell'opera che non toglie nessuno dal suo posto e che ci invita a stare nel mondo senza essere mondani. Così dobbiamo comportarci nell'ambiente in cui ci muoviamo, senza perdere di vista che se siamo fedeli, Cristo opera in noi e vuole servirsi del nostro esempio e della nostra parola per arrivare ad altre persone, che nel frattempo ci arricchiscono con la loro amicizia. Niente di più logico che i veri amici si comunichino a vicenda le loro gioie e le loro pene, la loro attività e, naturalmente, il più grande tesoro che possiede un cristiano, proprio la vita di Cristo. Parleremo loro di Dio, della gioia di averlo nella nostra anima in grazia, dell'immenso valore che soltanto Egli può conferire all'esistenza umana. Se agiscono così, i cristiani cooperano efficacemente alla missione evangelizzatrice della Chiesa, mettendo Cristo nel cuore e nell'anima dei loro amici, contribuendo in tal modo a innalzare la croce in cima a tutte le attività umane. L'apostolato della famiglia e con la gioventù. 30. Sono molte le attività che contribuiscono ad accrescere l'estensione del Regno di Dio. Tuttavia, alcune di esse hanno obiettivamente un'importanza maggiore, a seconda delle necessità di ogni epoca e di ogni luogo. La famiglia, la formazione della gioventù, il mondo della cultura propongono in gran parte la sfida della nuova evangelizzazione sulla quale spinge il Santo Padre. La famiglia ha bisogno urgentemente che si rinnovi il suo humus originario, voluto da Dio alla creazione, che purtroppo le consuetudini e le leggi civili di molti paesi sono impegnati a pervertire. È un compito di importanza capitale, nel quale noi cattolici concordiamo con persone di altre credenze o anche senza alcuna religione, consapevoli che il sostenere la famiglia, comunione d'amore tra un uomo e una donna, indissolubile e aperta alla vita, costituisce un pilastro insostituibile per un retto ordine della società e un fondamento importante perché gli uomini raggiungano la maturità e la felicità. A parte il contributo che possiamo offrire collaborando con altri, personalmente possiamo dare un aiuto, per esempio, facendo in modo che i coniugi si perdonino a vicenda e comprendano meglio che la loro vita è una donazione all'altro. Se poi si tratta di coniugi cristiani, li aiuteremo a capire che partecipano a un mistero, all'unione di Cristo con la sua Chiesa. La fedeltà di entrambi, con il passare del tempo manifestazione del vero amore, serve a tracciare anche il percorso per arrivare in cielo. Il lavoro apostolico con la gioventù sarà sempre una sfida vitale per il mondo e per la Chiesa, perché negli anni della gioventù si forgiano coloro che indicheranno la rotta della società e la faranno avanzare lungo i sentieri tracciati dal Creatore e Redentore. In questo ambito acquista un particolare rilievo l'apostolato dello svago e del buon uso del tempo libero. Mi limito a ricordarvi quello che vi ho scritto nel 2002, che è necessario riempire di contenuto cristiano i costumi, le leggi, la moda, i mezzi di comunicazione, le espressioni artistiche, tutti aspetti decisivi nella lotta per la nuova evangelizzazione della società, alla quale il Santo Padre chiama senza tregua i cristiani. L'apostolato e la cultura. 31. Il vasto mondo del pensiero e della cultura, delle scienze, delle lettere e della tecnica continua a essere un'area privilegiata che è necessario illuminare con le luci del Vangelo. I cristiani sono quindi chiamati ad avere una fede che consenta loro di confrontarsi criticamente con l'attuale cultura, resistendo alle sue seduzioni, di incidere efficacemente sugli ambiti culturali, economici, sociali e politici, di testimoniare che la comunione tra i membri della Chiesa Cattolica e con gli altri cristiani è più forte di ogni legame etnico, di trasmettere con gioia la fede alle nuove generazioni, di costruire una cultura cristiana capace di evangelizzare la cultura più ampia in cui viviamo. Gli apostolati dell'opera sono un mare senza sponde. Come Cristo sulla croce, vogliamo spalancare le braccia a ogni persona. A questo desiderio si deve il nostro impegno di arrivare a coloro che sono più lontani da Dio, come ci ha insegnato San Cosimaria, che amava, lo ripeteva sempre, l'apostolato ad fidem. Nostro Padre ci stimolava a mettere un particolare impegno nell'apostolato ad gentes, con i gentili. Prima di tutto, lo ripeterò ancora una volta, con un'amicizia sincera, leale, umanamente buona. Approfittando delle molteplici relazioni che si originano nell'esercizio dell'attività professionale, in un mondo caratterizzato dalla globalità sarà facile dialogare con persone di altre confessioni o credenze, o con gente senza alcuna religione, con l'intento di suscitare in loro il desiderio di conoscere meglio Dio. Aiuteremo anche quelli che mostrano una disposizione negativa verso la Chiesa Cattolica, se li tratteremo con mansuetudine, pazienza, comprensione e affetto. Considero importante soprattutto, diceva Benedetto XVI in un discorso alla Curia Romana, il fatto che anche le persone che si ritengono agnostiche o atee devono stare a cuore a noi come credenti. Quando parliamo di una nuova evangelizzazione, queste persone forse si spaventano. Non vogliono vedere se stesse come oggetto di missione, né rinunciare alla loro libertà di pensiero e di volontà. Ma la questione circa Dio rimane tuttavia presente pure per loro, anche se non possono credere al carattere concreto della sua attenzione per noi. Anche se alle iniziative di questo tipo partecipano in particolare soltanto alcuni, sentiamo il dovere di sostenerle con la nostra preghiera. Infatti, ciascuno di noi, figli di Dio nella Santa Chiesa, vuol vivere solamente per portare il nome del Signore a tutti i popoli e a tutte le culture, fino agli estremi confini della terra.